cenno d'intesa con i suoi collaboratori, si comincia. Convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Denis, il tanque in contropiede, punisce Diego Lopez. Atalanta 1, Milan 0, quarto gol in campionato per German Denis. Fischia Russo, fischia tre volte, l'Atalanta ottiene una vittoria preziosissima a San Siro. Sbanca lo stadio milanese, il Milan perde in casa la seconda su due nel 2015, dopo il Sassuolo anche l'Atalanta vince qui, un solo punto in tre partite per un Milan di Inzaghi assolutamente in crisi. Un Milan di Inzaghi che, lo avete sentito, è uscito da San Siro sepolto dai fischi dei pochi presenti. Oggi San Siro più vuoto che pieno. 800 24 00 24, se volete raccontarci il vostro pomeriggio da milanisti, noi siamo qui fino alle ore 19, ma anche se volete parlare della crisi dell'Inter dopo la partitaccia vista ieri sera, se volete parlare di quello che attende la Juve, della Roma che sembra uscire dalla corsa scudetto. 800 24 00 24, Claudia Schiattone in cabina di regia, Gianmarco Ferronato che ci segue, Carlo Genta, ciao Carlo. Ciao Giovanni, buonasera a tutti. Adesso no. Torna Sacchi. Sì, adesso torna Sacchi, non serviva un udito fine per sentire i fischi di San Siro. Vabbè, ci mancherebbe altro. Il Milan ha giocato una partita orripilante oggi contro l'Atalanta. Ma da ogni punto di vista, ha preso un gol in contropiede in cui l'Atalanta è scivolata via sul velluto, poi nel secondo tempo la stessa Atalanta ha sbagliato un mucchio di gol, e sono quelle partite in cui dici vabbè, adesso il pareggio in qualche modo lo trovano, invece no, non sono praticamente mai riuscito a tirare in porta. Alla fine poi è entrato Pazzini, il Milan ha finito con 4 punti, qualcosa di orripilante. Però c'era da parlare anche del Napoli che ha vinto 1-0 a Roma con la Lazio, una partita estremamente importante. Sì, c'è da parlare di tanto in questa domenica di fine girone d'andata. Intanto saluto Dario Ricci, nostro inviato a San Siro. Ciao Dario. Ciao ragazzi, ben ritrovati da San Siro. Io saluto te e gli ospiti, l'ospite che ci porterai con questa frase pronunciata da Zvonimir Boban pochi minuti fa ai microfoni di Sky. Il Milan è una squadra non mediocre, di più, è allo sbando, non ha carattere, non ha quasi senso. Amen. Quasi senso. Giro questa riflessione al nostro primo ospite, Franco Ordine, inviato del giornale. Beh, Franco, Boban ha detto che Sport, il Milan non è una squadra mediocre, ma molto molto peggio, molto molto di più, senza carattere, senza gioco. Ma, domanda magari banale, c'è qualcosa da salvare da questo pomeriggio? No, assolutamente niente. Francamente niente, credo che sia proprio, come dire, la plastica conferma che questi certi problemi non possono essere risolti con un risultato occasionale in Coppa Italia contro il Sassuolo, che ci sono dei deficit di gioco, soprattutto di schemi, oltre che di condizioni fisica e tecnica molto clamorosi, e tutto questo comporta l'ottavo posto in classifica e, diciamo, la perdita ormai definitiva di ogni ragionevole speranza di raggiungere il terzo posto. Quanto c'è di colpa di Inzaghi, oggi tra l'altro espulso nel finale per proteste dall'arbitro russo? Secondo me è una buona fetta che riguarda il calcio, il gioco. Questa è una squadra assolutamente priva di gioco e di schemi. Questa è una squadra che sa giocare solo e soltanto in contropiede e basta. Oggi veramente caccia. Mi sembra, Dario, ci sia forse anche, a largo discorso anche a Carlo Genta, un problema fisico. Cioè, noi abbiamo lasciato il Milan prima di Natale bene, che correva, al di là che aveva un'identità tattica, l'abbiamo trovato smarrito in questo gennaio. Sì, ma Ciccio Ordine l'ha detto, è stato nostro ospite anche l'altro giorno, e l'ha detto, cioè è stata sbagliata innanzitutto la ripreparazione invernale, questo viaggio in Medio Oriente, amichevole con Reale, eccetera, eccetera. È una squadra che ha fatto un punto pessimo peraltro a Torino con il Torino nelle prime tre partite di questa stagione, lasciare stare la Coppa Italia. Vale forse la frase di Boban impietosa, è una squadra quasi senza senso questa. Mi piacerebbe sapere, visto che si è parlato molto in queste ore, Dario, se questo Inzaghi ha bisogno di una mano, se poi la mano sia quella di Arrigo Sacchi, se possa cambiare qualcosa anche dopo questo pomeriggio di decomposizione tecnica, tattica, fisica. Che cosa succede oggi ad Inzaghi e al Milan, da domani? Direi, parere personale, sicuramente l'inserimento di un Sacchi può essere utile, ma è estremamente complesso, sia per la radicalità del calcio di mister Arrigo, sia anche perché si creano inevitabili problemi di convivenza. Domanda che giro anche a Franco Ordine. Franco, davvero un supporto come quello ipotizzato di Sacchi potrebbe aiutare Inzaghi a uscire da questa situazione, oppure per paradosso potrebbe anche aprire scenari molto più complessi? No, ma insomma, Sacchi non è interessato a un lavoro di questo genere, né credo che Inzaghi lo accetterebbe, per cui mi sembra, come dire, siamo completamente fuori pista da questo punto di vista. La verità è che dobbiamo interrogarci invece sulla maturità di Inzaghi e sulla capacità di Inzaghi. Non credo che basti pensare al calcio 24 ore su 24 per, tra virgolette, meritarsi la panchina del Milan. Forse no. È troppo schiacciato, Franco, su una linea presidenziale che forse è legata fin troppo all'idea del calcio spettacolo, del Milan spettacolo, che forse tra l'altro con questa rosa ben difficilmente si può fare, una rosa che poi accumula doppioni, arriverà Suso, è arrivato Circi, tutte copie del miglior Menezze quelle poche volte che si è visto. Ho capito, però forse il cielo ci fosse una, come dire, un tentativo di andare sulla lunghezza d'onda del presidente che parla di bel gioco. Il bel gioco non ce n'è proprio, non esiste proprio il gioco, e quindi non mi pare che sia questo il problema. Dario, ringrazio Ciccio Ordine, vi faccio sentire Colantuono dai microfoni di Sky, il trionfatore di San Siro. Magari se troviamo qualcun altro, intanto Dario, sentiamo Colantuono. Anche perché nel secondo tempo il Milan ha avuto una buona reazione, ha cambiato il sistema di gioco, ma avete avuto 2-3 contropiedi alla vecchia maniera che non avete sfruttato bene. Questo è rammarico? Sì, questo è rammarico, perché queste sono partite che se tieni aperte alla fine rischi di pareggiarle. Invece stavolta siamo stati bravi, abbiamo tenuto. C'era già capitato contro il Genoa, per esempio, eravamo andati sul 2-0, poi ci avevano raggiunto. Invece siamo stati molto bravi, compatti. Potevamo anche nel secondo tempo, anche se il Milan, c'è da riconoscere, nel secondo tempo si è alzato molto, ha cambiato il sistema di gioco, come dicevi. Abbiamo avuto comunque un altro paio di occasioni per fare il 2-0. Sì, io credo, Carlo, che l'eredità che lascia questo pomeriggio di San Siro, a maggior ragione visto anche questo inizio di 2015, sia che se qualche mese fa si poteva discutere e alla fine cacciare un allenatore da 35 punti in un girone, a maggior ragione oggi che finisce questo paragone virtuale tra Seedorf e Pippo Inzaghi si può ragionare su uno che di punti ne ha fatti 26. Sì, ma i numeri non sono storia. Non sono tutto, però cominciano anche a essere una fotografia impietosa. Certo, però è un'altra storia. Sappiamo bene quale fosse la posizione di Seedorf, che non era amato dallo spogliatoio, è arrivato a spaccato lo spogliatoio, non era amato da parte della società, soprattutto quella facente capo a Galliani. Alla fine si è trovato esautorato e anche Berlusconi si è cominciato, vabbè, mandiamolo via. Inzaghi invece ha messo d'accordo tutti, inizialmente Berlusconi, ogni parte dell'anima della società, i giocatori sembravano con lui. Che tempo uso? Sì, sembrano. Visto il pranzo di venerdì, evidentemente ma sì, lo sono puoi fare ancora. Tutti i pranzi che vuoi, ma questa è una squadra improponibile. Poi nel calcio c'è quel termometro che sono i risultati del Milan sono impietosi. 800 24 00 24, se volete analizzare con noi la crisi del Milan. Adesso c'è traffico, poi torniamo anche a San Siro da Dario Ricci in attesa di Pippo Inzaghi. Traffico. Amici, fratelli e sorelle di Radio 24, volevo dire che non si può reagire violentamente, ma se il signor Capuano, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, si aspetta un pugno, ma è normale. Oggi a San Siro erano in 27.836, sì, forse avevano previsto che cosa sarebbe accaduto. Noi a San Siro torniamo in attesa di Pippo Inzaghi. 800 24 00 24, c'è quella frase di Boban che sembra davvero un epitafio sul Milan di quest'anno: non è una squadra mediocre, è di più, una squadra completamente senza senso. Fammi tornare a San Siro da Dario Ricci, che credo sia con una collega. No, adesso recuperiamo la linea, Carlo. No, c'è da dire che insomma le sentenze definitive in questo momento non valgono, perché ci sono Roma e Juventus che fanno il loro campionato a parte. Non sono d'accordo con te quando dici che la Roma esce dalla corsa scudetto, non credo proprio. Non è stata una bella versione quella di ieri a Palermo, però la Juventus stasera batterà il Verona, non ho dubbi su questo. C'è l'elastico, la Juventus ha due turni favorevoli, ma credo che la Roma rimarrà lì fino alla fine. E poi tutte le altre, guarda, vedi la Lazio che sembra quadrata, tosta, tonica, eccetera, perde in casa con il Napoli, che invece è in un momento difficile. Io credo che dal Napoli al... ci sono otto squadre in sette punti. Io dico dal Napoli al Palermo, insomma, possono stare tutte nello stesso brodo. Dai 33 di Napoli e Sampdoria ai 26 di Inter, Milan e Palermo, otto squadre in sette punti che comunque ancora possono tenere aperto almeno virtualmente questa porta, questa porticina verso il terzo posto. Torniamo a San Siro, Dario. Eccoci Giovanni con Arianna Ravelli del Corriere della Sera. Beh, Arianna, stai facendo le pagelle, arrivano a 10 quelli del totale del Milan. Del totale di tutti, sì, diciamo. No, un Milan tremendo, penso forse il peggiore, ancora peggio della precedente sconfitta col Sassuolo, secondo me. Proprio senza schemi, senza niente, non un guizzo, mancanza di personalità totale, perché c'è anche un problema di personalità oltre che di tecnica, perché la rosa del Milan non sarà eccezionale, ma non è inferiore a quella dell'Atalanta. Cioè, questo è poco ma sicuro, ma soprattutto un problema tattico nel primo tempo, difficoltà per gioco ad uscire da quell'area di rigore. Per dare un'idea, Giovanni, sembrava la partita di calcetto del giovedì, quando i tuoi amici più in forma ti prestano e te non riesci neanche a rimettere il pallone in gioco dopo la rimessa. Se questo capita al Milan, come mai a fianco a De Jong nessuno dei tanti piedi buoni si abbassava a prendere questo pallone? Sì, e De Jong si abbassa sempre troppo, no? Cioè è sempre quasi il terzo centrale aggiunto, si abbassa troppo e con lui fa costringere tutta la squadra ad abbassarsi, però non c'è neanche nessuno, come dicevi tu giustamente, che si metteva lì in mezzo centralmente a impostare l'azione. Anche questo dico mancanza di personalità, perché cioè, per esempio anche dal capitano, da Montolivo, in una situazione del genere ci si aspetta qualcosa di più, insomma, che lì in mezzo prenda in mano il gioco. Non solo, tutte le volte che il Milan ormai non è purtroppo non è la prima volta, una consuetudine, Palermo, Sassuolo, si trova a giocare con squadre di quella fascia molto ben organizzate o quantomeno che ammettono semplicemente le persone giuste al posto giusto, va in difficoltà. Se non può usare il contropiede, cioè senza, sotto il contropiede nulla. Mi piacerebbe capire, Dario, mi piacerebbe capire come se ne esce. Intanto Inzaghi deve, secondo me è chiamato un percorso di crescita, questo è un momento decisivo per lui, credo, perché è la prima vera momento di crisi che si trova ad affrontare da quando è al Milan. Finora è stato molto soft, no? Il suo ingresso, è stato anche coccolato dai tifosi, lui era un idolo dei tifosi, adesso è veramente finita la pazienza. Avete sentito San Siro? Sì, Dario, mi piacerebbe capire da te e da Arianna, che poi conosce benissimo le cose del Milan, anche quelle dietro le quinte, se ufficialmente da oggi si è aperto il periodo di osservazione di Pippo Inzaghi, al di là della luna di miele che è evidentemente finita. Arrivano adesso due partite particolari con la Lazio, per entrambi i versi importanti, perché comunque il Milan deve rialzarsi in campionato e non sarà facile all'Olimpico, e perché c'è in gioco quella Coppa Italia che rischia di diventare l'obiettivo principale della stagione. Ripeto, meno 9 punti rispetto alle 19 partite di Seedorf, per carità, i numeri non sono tutto, però ci sono le basi tecniche per ragionare da qui in poi anche sul futuro di Inzaghi. Si apre il capitolo, Arianna, del futuro di Inzaghi, ci chiede Giovanni Capuano da studio. Da questo momento in poi è l'allenatore sotto esame? Ma diciamo che quello che mi impedisce di risponderti sì immediatamente è l'assenza di un'alternativa anche qui, perché di sicuro almeno in questo momento alternative non ce le ha. Quindi, perché è impensabile il ritorno di Seedorf, perché il Milan sta ancora pagando Seedorf, questa Sacchi, tanto di cui si è discusso tanto negli ultimi giorni, non è certamente per un ruolo simile che è stato contattato, quindi in questo momento non ci sono piani B, diciamo. Però detto tutto questo, è chiaro che questi risultati giustificano un Inzaghi sotto esame, perché anche lui adesso è chiamato, come tutti i ragazzi, a un uno scatto decisivo, insomma, una crescita decisiva, cioè o adesso o mai più, insomma. Sì, soprattutto anche in vista della prossima stagione. Dario, io ringrazio Arianna Ravelli, resta lì, perché sottolineiamo che 17-22 Pippo Inzaghi continua a non vedersi ai microfoni di Sky. Inzaghi che di solito è rapidissimo, quindi evidentemente sta succedendo anche qualcosa negli spogliatoi, io immagino. Beh, Dario, parlando, un confronto con Galliani, magari una telefonata con Berlusconi, poi ce lo racconti fra qualche minuto, Dario. Intanto c'è chi scrive: il Milan rischia la B, oppure il Milan non è un problema di gioco ma di carisma di Inzaghi, e anche dei quindi giocatori. La squadra si squaglia, probabilmente non è solo un problema di carisma di Inzaghi. No, è anche un problema di carisma dei giocatori, perché quanto si stava dicendo è giusto, cioè il Milan non ha, innanzitutto non ha centrocampisti di livello, perché la squadra tra le, come abbiamo detto, le otto che possono teoricamente lottare per il terzo posto è quella che ha i centrocampisti più scarsi. E poi non ha giocatori di personalità, perché lo stesso Montolivo l'anno scorso ha giocato una stagione da ragioniere, poi poveretto si è fatto male, si è bruciato il mondiale, però non è uno che brilla quanto a coraggio, personalità, carisma, eccetera eccetera. Quindi il Milan non ha giocatori di personalità, non ha giocatori in grado di prendersi la squadra sulle spalle, quando anche di trascinarla fuori da questo fuori, periodo di crisi. Ma non ha tutto questo il Milan, tra le altre cose. È chiaro che la luna di miele è finita, ma sarà determinante secondo me capire se il tempo di quel verbo, la squadra è o era con Inzaghi, perché questo sarà, perché sai meglio di me, Giovanni, che se ne è parlato in questo periodo. Qualche scricchiolio c'è stato, qualche mugugno c'è stato, adesso si tratta di capire se la società è con Inzaghi e quale e quanta parte del gruppo sta con il suo allenatore, che è chiaro deve crescere, ma questo lo sapevamo già dall'inizio dell'anno, che diciamo il Milan prende uno che allenatore non è, e quindi questo porta dei rischi. 800 24 00 24, Roberto da Milano, eccoci Roberto. Eccomi, grazie, complimenti per la trasmissione innanzitutto. Prego. Anch'io la vedo anch'io così, come diceva Carlo Gente, non c'ha anima, non ha gioco proprio, secondo me anche la società è in totale confusione, non sa più cosa fare, perché ad esempio quest'estate è andato via Cristante e sembra che stia facendo bene a Benfica. Cioè, non ha avuto uno straordinario inizio, gioca pochino, chance di giocare, esattamente, bravo. E ad esempio Saponara non lo fanno giocare, cioè l'hanno preso, non lo fanno giocare. Data Empoli, una ragione ci sarà, però sì, sarà anche una ragione, per carità, però dico dove lanciare questi benedetti giovani, non li lancia, poi ha fatto retromarcia, non lo so cosa, cioè io penso che la società è in tale confusione. E poi ahimè, anche se Inzaghi non ha esperienza, alla fine paga le conseguenze. Poi io dico l'ultima cosa e poi vi lascio, scusatemi tanto, e poi io penso se in futuro, per il prossimo anno, io vedo bene questo Fabrizio Castori del Carpi, ecco. Sì, ho l'impressione che serva un profilo differente per il Milan, magari lo stesso Pippo Inzaghi, però se dovessi decidere di cambiare e di abbandonare l'anno prossimo Inzaghi, non credo che sia andando a prendere un allenatore dalla Serie B, per quanto dopo una stagione straordinaria. Carlo, sentiamo Mihajlovic, microfoni di Sky Sport. Mihajlovic che è terzo, se potesse dare un voto, insieme a Benitez. Ma noi sicuramente, diciamo, nessuno si poteva aspettare Sampdoria che finisse al terzo posto dopo 19 partite. Noi siamo partiti che il nostro obiettivo è la parte sinistra della classifica, poi giocando partita per partita siamo qua dove siamo, ecco, perciò penso che tutti i punti che abbiamo fatto sono punti meritati, e se avessimo migliorato la mentalità e la maturità qualche mese prima, anche alcune partite che abbiamo pareggiato, vedi Cagliari, vedi Cesena, potevamo vincerla come abbiamo fatto altro domenica scorsa, e questa qua, perché queste sono partite che Sampdoria deve vincere, perché paradossalmente a me queste partite mi interessano più che quelle che magari ti possono dare un certo prestigio, perché vincendo queste partite ti permette dopo, quando giochi con le squadre che sono più forti di te, giocare a viso aperto senza obbligo di vincerla, e questo deve essere il nostro obiettivo. Questo è Mihajlovic, ovviamente contento. Dario Ricci, per capire perché Inzaghi non arriva. Dario, da San Siro. Ce lo stiamo domandando tutti, anche ad esempio Milan Channel, di solito chiaramente per obblighi evidenti, Pippo passa anche da loro, e niente, si aspetta che esca l'allenatore dagli spogliatoi, probabilmente un conflitto con la squadra, un vertice anche con lo stesso Galliani. Ma è interessante anche vedere e capire il tono dei messaggi, degli sms che stanno arrivando alla TV tematica del Milan. Parlare di delusione è quasi un eufemismo, e tifosi che le dicono non basta essere presi in giro. Sì, c'è proprio la rottura di un'illusione. Esattamente, esatto. Esattamente. Ma non dovevamo essere, ecco, ti leggo questo in diretta, ma non dovevamo essere la squadra del 2015, basta essere presi in giro, questo sì. L'ultimo arrivato. Poi questa mattina Carlo hanno letto sui giornali che potrebbe tornare a essere la squadra degli anni 80 con Arrigo Sacchi, magari in questo ruolo, ancora tutto da definire. Chi è? Pronto? Complimenti ecco, vivissimi per la vostra trasmissione, che peraltro ascolto dei tempi in cui allenavo senza stress, sì, il Fusignano, e pensi che Capuano coltivavo nell'orto di casa le melanzane bicazzute. Sì, bellissimo. Erano veramente delizioni. No, non lo sapevamo. Arrigo, visto il Milan, visto che ce l'abbiamo in diretta, no? Visto il Milan oggi, male. Sì. Ho visto il Milan, io sto andando giusto a Milanello con la mia Porsche e sto portando al presidente delle videocassette. Videocassette, grandi sì. Novità, eh? Sì, sono delle videocassette VHS che mi servono per mostrare un nuovissimo modello di 4-4-2, i movimenti senza palla di Mussi, Bortolassi e Bianchi. Sì, ma siamo rimasti agli anni 80, Arrigo. Passato qualche annetto. Complimenti, gente, complimenti vivissimi per questa sua osservazione. Prima faccio vedere i movimenti senza palla di Mussi e Bortolassi, ma poi le ripartenze sulla fascia di Van Basten, di Gullit e Reiker, sì, siamo sempre lì. Molto redditizi. Aspetta, mi dice Claudia Schiattone, abbiamo Berlusconi sull'altra linea. Buonasera, presidente. Buonasera. Oh, siamo senza parole. Male il Milan, male. Sono senza parole anch'io, come sì. Avete notato, abbiamo cambiato l'organizzazione sì. Del nostro gioco, sono molto fiducioso, sì. Sono molto speranzoso dopo aver visto questa squadra combattere, sì. Coesa, molto sì, positiva. Ha perso, ha vinto l'Atalanta 1-0, le ha sentiti, mi fa fischi. Che lei segua la programmazione di Mediaset, scherzi a parte, ma oggi ho visto una squadra che può sicuramente centrare l'obiettivo Champions, sì. Abbiamo assolutamente possibilità enormi. Io ho l'impressione, Carlo, che lui lo rimuova, scorsa sta guardando le videocassette di Sacchi, sta guardando giù a casa. E quando Arrigo Sacchi riabbraccerà un Milan in salute, sì. Coeso, molto positivo, sì. Verrà accolto a braccio aperte da Inzaghi. Sono sì. Veramente molto fiducioso, sì. E speranzoso. Arrigo, ha sentito? Arrigo? Beh, sì, ho sentito il sì. Presidente, oltre al sistema tecnico-tattico sì. Fatto di gabbie e ripartenze, bisognerà diminuire lo stress, perché lo stress gioca male, e magari introdurre una bella dieta con le mie melanzane bicazzute, sì, come no. Di arrivederci, Arrigo. Salve, presidente, arrivederci. Bocca al lupo, se va così in bocca al lupo. Partita in bilico, stop per noi. Tutti convocati. Ma sai, questa è una soluzione che abbiamo, insomma, oggi Pazzini ha avuto 3 giorni la febbre e l'ho visto solo ieri, per cui non poteva partire dall'inizio, per cui insomma sapevo di metterlo nel secondo tempo, pensavo mezz'ora, poi le necessità della partita mi hanno portato a farlo giocare un tempo. Il secondo tempo abbiamo creato di più sicuramente, però non siamo riusciti lo stesso a segnare. E basta, è giusto essere sotto osservazione, io sono il primo a prendermi le colpe e devo cercare di far di tutto insieme al mio staff per far tornare il Milan quello che aveva fatto prima della sosta, perché questi giocatori insomma avevano giocato alla pari con Napoli e la Roma e non possono essere diventati così tutto di un colpo, per cui ragioniamo bene e torniamo presto, già come dicevo da domani mattina, a lavorare. Studio. Sì, ha detto anche Inzaghi, che poi continuiamo a sentire, Carlo, non siamo più sereni, adesso dobbiamo rimboccarci le maniche. Siamo vuoi essere sereno con un punto in tre partite, però siamo senza bussola, cioè non c'è un'idea di analisi. Poi adesso vediamo se magari sentiamo ancora, c'è Boban che parla con Inzaghi. Fino diciamo alle partite con Napoli e Roma è stato tutto quasi naturale, noi tutti sappiamo che questo Milan non può giocare un gran calcio, però se non lotta, se non c'è impegno e voglia quasi maniacali, allora manca quasi tutto. Quindi può essere assenza di gioco, però assenza di squadra, assenza di gruppo, come lo è stato le ultime tre partite, lo che ti deve preoccupare è tanto. Tu come pensi, come credi si possa questo risolvere? Non vi descrivo la faccia di Inzaghi mentre ascolta la lezione. Ma risolvere come abbiamo fatto martedì in Coppa Italia, perché martedì abbiamo fatto una buona gara, sì, sempre contro il Sassuolo. Coppa Italia, Pippo, c'è un'altra cosa. Coppa Italia per noi non è molto importante. Non può adesso, sono comunque le ultime quattro partite, Coppa Italia... Cioè, sinceramente, sì, non ha peso. Ho già detto di che bisogna partite. Lavorare. Non, ma quello bisogna voi lavorate meglio, per cui, cosa, dobbiamo cercare di ritornare a fare quello che avevamo fatto prima della sosta. Siccome l'abbiamo fatto, non penso che l'abbiamo disimparato. Probabilmente la sconfitta col Sassuolo ci ha un po' indebolito delle nostre convinzioni. Starà a me dargli nuove certezze e cercare di farli giocare sereno, perché io comunque alleno il Milan, devo cercare di far giocare, anche se non potremo mai giocare un grandissimo calcio, ma dobbiamo cercare in tutti i modi di giocare meglio, perché solo col gioco si possono ottenere risultati, oltre alla voglia, che quella non deve mai mancare. A lezione dal professor Boban. Sì, a lezione dal professor Boban, che ha tirato quattro schiaffoni, ma giusto, ha ragione Boban, la Coppa Italia non fa testo. Tra l'altro contro le riserve del Sassuolo, perché c'era questo facendo una fatica pazzesca, peraltro, non è che gli è andato 4-0, cioè hanno fatto una fatica pazzesca con anche quel gol annullato al Sassuolo, ma non torniamo su questi temi, già visto che oggi tanto non ce n'è bisogno. È chiaramente un Milan che non ha gambe, un Milan che non ha condizione, un Milan che non ha leader e un Milan che non riesce a trovare un piano B rispetto a quello che al piano A che Inzaghi ha nella testa. È un Milan che gioca alla provinciale, cosa che può funzionare se stai bene, se hai condizione, con le squadre più forti e talentuose di te. Quando giochi con queste squadre molto organizzate e che corrono, lì ti serve qualcosa di diverso. Se un piano B l'avete voi, noi siamo qui fino alle 19:00 800 24 00 24, poi dopo le 18 arriva anche Pierluigi Pardo. Fammi parlare con qualcuno che oggi invece ha goduto, Boris Sollazzo. Sì, ciao ora. Boris, buongiorno a tutti. Ho goduto parecchio, sì, lo ammetto. Certo, vedendo oggi il Milan poi alle il 15 mi chiedo come abbiamo fatto noi a perderci 2-0, però insomma non mi passerà mai questa. Questa è la debolezza intrinseca di questo campionato, è per quello che dico che dal Napoli a Sampdoria in giù fino al Palermo, siccome sono squadre ondivaghe, umorali, che non riescono a trovare lo straccio di una continuità accettabile, è per questo che ti dico che camminano un po' tutte come i gamberi e quindi la situazione rimarrà incerta fino alla fine, Napoli compreso, mio caro Boris Sollazzo. Sì, sì, no, ma ne sono abbastanza convinto e devo dire che sembrerò pazzo, ma quella squadra che mi preoccupa di più è la Sampdoria, perché mi sembra di queste la più regolare, cioè quella che se si esclude forse Lazio-Sampdoria è quella che procede più in maniera più giusta, più determinata, senza strappi, e in più adesso avrà Muriel che, vabbè, se riesce a mangiare meno cioccolata, come diceva Guido Pin, potrebbe essere un grande acquisto. Hai detto che comunque, male che va, anche se dovesse essere fuori forma, è uno che porta un'altra testa all'interno dello spogliatoio, quindi devo dire la Sampdoria mi fa molta paura, perché non vedo cedimenti in quella squadra, ecco. Sì, sì, secondo Capuano le genovesi torneranno nella cesta. Beh, mi sembra che il Genoa piano piano stia tornando alla sua dimensione. La Samp, vediamo anche dopo questo mercato, continua a ritenere il Napoli assolutamente la squadra più strutturata per quel terzo posto che un anno fa di questi tempi era quota 42, c'era proprio il Napoli. Oggi il Napoli ne ha 33 insieme alla Samp, e per questo possono continuare a sperare le altre. Boris, meglio il Benitez di oggi, che ha messo giù una squadra solida, cinica, cattiva, attenta, di quello impegnato dialetticamente in maniera anche un po' sgangherata negli ultimi giorni, nelle ultime ore? Io adesso non voglio parlare da tifoso, devo dire che mi sono piaciuti tutti e due, credo che siano anche funzionali l'uno all'altro, nel senso che un Benitez più arrabbiato secondo me di fatto ha fatto anche concentrare meglio i giocatori, che sono stati un pochino più cattivi. Mi piace molto anche questo Benitez, tra l'altro, che sa difendere. Io non ci dormivo la notte pensando che a Valencia e Liverpool c'erano difese di ferro e a Napoli invece vedevamo quelle amnesie incredibili. Oggi, tranne forse l'occasione di Cavanda, che è un errore di Maggio e Calleon che non scalano come dovrebbero, il Napoli ha fatto bene soprattutto in difesa, perché poi la vittoria è solo ed unicamente merito di Gonzalo Higuaín, che è davvero l'uomo in più del Napoli, nel senso che in questa corsa per il terzo posto il Napoli mette Higuaín, per il resto è abbastanza simile a tutte le altre squadre. Poi c'è un Inter che secondo me con i nuovi acquisti potrebbe andare avanti. Basta, quella di ieri non tantissimo, Quella di ieri non tantissimo, però attenzione che l'Empoli ha fatto soffrire tutti, Roma, Juventus, Napoli. L'Empoli è una squadra organizzatissima. C'è modo e modo di soffrire, perché io ricordo la partita del Napoli, ottimo primo tempo, poi amnesia, e poi era successo quello che era successo. Ma anche il Milan, che pure nella prima mezz'ora ha rischiato l'imbarcata ad Empoli, poi dopo era anche andato vicino a vincere. Ma poi avremo tempo di parlare dell'Inter. No, Higuaín, che è il sole attorno a cui gira tutto questo Napoli, sentito dire oggi: ho un contratto, sono felice qui, resto, ciao, punto, e se n'è andato. In realtà qualche segnale di mal di pancia è del tutto evidente già da agosto, da quel preliminare con l'Athletic Bilbao. Sì, Higuaín secondo me deve fare però un po' la pace con se stesso, al di là del fatto che domani probabilmente i giornali sportivi titoleranno che se ne vuole andare, e lui non lo dice mai, questo bisogna riconoscerglielo. Però i malpancisti napoletani, che adesso mi sembrano più tranquilli, come Calleon, come Higuaín, come Raul Albiol, come Mertens, sono anche la causa per cui il Napoli ha 33 punti e non 42, cioè sono venuti a mancare proprio loro, non è che certo. È venuto a mancare Gargano, certo. È venuto a mancare Koulibaly, insomma sono venuti a mancare loro, quindi se la devono un po' giocare loro, nel senso che se il Napoli non arriva terzo, più che colpa di Benitez darei la colpa a quelli che hanno iniziato a giocare a metà campionato. Hai ragione, neanche a Tagliavento devi darla, perché nella partita con la Juve va bene quell'errore, va bene quello che vuoi, però sono stati i leader del Napoli a giocare una pessima partita. Sì, errore che noi non abbiamo ancora certificato. Ho capito, però va bene Tagliavento, in realtà va bene. Siamo ancora lì a discutere, che forse c'è maggio in mezzo, e proprio per questo io ho trovato assolutamente strumentale ieri l'uscita di Benitez. Però Benitez si iscrive alla lista, dopo Garcia, dopo Mourinho, dopo Conte, dopo tutti gli altri. Vabbè, gioca lo stesso gioco. Strategia, Boris. Beh, l'ha capito, cioè ha avuto per Lazio Napoli un grande arbitro come Rizzoli, sì. Che secondo me adesso sembrerà folle, però l'errore su Parolo è grave, non espellerlo, ma è decisamente diverso quello che accade, nel senso che non si è mai avuta l'impressione che ci fosse una squadra favorita nelle piccole decisioni, cioè Rizzoli ha fatto una conduzione assolutamente normale, era anche forse una partita più facile, e quella di Tagliavento ha dato più fastidio, non tanto per quel fuorigioco che comunque a velocità normale si vede più che a velocità rallentata, ma perché per Pirlo che falcia Higuaín dopo pochi minuti, non viene ammonito, per tutta una serie di piccole decisioni che, lo sappiamo, vediamo il calcio da tanto tempo, indirizzano in qualche modo la partita, la innervosiscono. Poi io quello che non sopporto degli arbitri che non sanno arbitrare, perché non ci vedo malafede, è che danno un alibi a squadre che spesso hanno delle lacune per cui probabilmente perderebbero lo stesso, e vale anche per il Napoli. Come dite voi, è peggio quello che hanno fatto i giocatori del Napoli che quello che ha fatto Tagliavento, ma nel momento in cui Tagliavento sbaglia dà un alibi, e quello non va bene, perché magari ne approfitta De Laurentiis per fare un po' di ghiaccio e non comprare il centrocampista che serve. Boris, ti devo salutare, ma perché c'è il presidente. E beh, allora Ubi Maior Mino Scelsat. Ciao Boris. Ciao ragazzi. Il presidente dell'Everton ci dà l'ok e poi canta me viva Variale, ecco no. Edo, e non mi dica una cosa, campo gli famo male, però ecco, ecco con Variale. Edo, presidente, senza cori, con Edo e Muriel la Sampdoria punta davvero alla Champions League al terzo posto, giusto? Questo lo dovete chiedere al mio mister. No, lo io punto a lei. Andare sulla luna. Io voglio andare sulla luna, non al terzo posto. Mi io dica l'ultima cosa, presidente. Se all'inizio del campionato l'avessero detto al girone, alla fine del girone d'andata, la Sampdoria ha 7 punti in più di Inter e Milan, lei cosa avrebbe risposto? Che so pochi, ne trovavo 11. Va bene, presidente. Abbiamo fatto quel regalo a Aurelio. Aurelio... E ve lo ricordate a Marassi, no? Aurelio parla di De Laurentiis con cui vi dividete il terzo posto, insomma quella pareggio conquistato in extremis da Napoli. Mi deve ringraziare perché quando è venuto a giocare con noi all'ultimo secondo dovevamo buttare la palla in tribuna, voi ricordate? Sì, ce lo ricordiamo, sì. Mi dice l'ultima cosa, allora... ma è vero che sta preparando un film sulla vita di Eto'o e sull'avventura di Eto'o quando arriverà la Sampdoria, per quello che farà vedere questo giocatore straordinario quando arriverà appunto a Genova? Questo lo dobbiamo chiedere a Gubitosi. E che c'entra? Perché te la produce la Rai questa cosa? No, se ci faccia ci dà pure questa notizia. Certo. Ah, vedi, allora questo ci fa. Quindi la Rai produce film di Ferrero su Eto'o. Traffico. Tutti convocati. Sai che pensa anche al tiro, infatti lo prova, you say, Handanovic deve intervenire su questa conclusione avvelenata. Vaccarone dentro per Zielinski, ancora con la punta, ancora Handanovic a salvare l'Inter, poi il fallo in attacco. Sono un po' dispiaciuto perché la squadra dovrebbe cercare di costruire l'azione meglio da dietro, cosa che oggi abbiamo fatto poco, che abbiamo concluso poco. Ecco, questo è una cosa della quale sono un po' dispiaciuto, però questo è un altro problema che dobbiamo cercare di risolvere. Ci vorrà un po' di tempo, avere un po' più di personalità fuori casa, soprattutto in questi campi così dove le squadre giocano bene e corrono molto. You better stop. Ascoltando prima Boris Sollazzo dire da napoletano non capisco come abbiamo fatto a perdere con questo Milan, mi è venuto in mente che ieri sera sui social in tanti tifosi juventini si interrogavano come abbiamo fatto a pareggiare con l'Inter. Andrea Sorrentino. Andrea. Buonasera a tutti, ciao. No, domanda legittima, tutte e due, sia il tifoso napoletano che i disperati tifosi della Juve. Ma si può rispondere con la frase fatta che ogni partita fa storia a sé, quindi si può anche perdere con l'ultima in classifica e vincere con la prima a volte. Però se andiamo a parlare di Inter davvero dobbiamo dire che l'Inter è una squadra anche con Mancini molto zoppicante e che gioca quasi sempre le partite a metà. Ieri probabilmente è stata la peggiore Inter stagionale, almeno a mio avviso, contemplando tutta la prestazione, perché per la prima volta in campionato è stata completamente in balia di un avversario. Sì. Questo è il dato molto preoccupante per Mancini ieri. L'Inter, anche quando magari non giocava benissimo, zoppicava, portava palla troppo lentamente con Mazzarri, ne abbiamo parlato a lungo, almeno aveva un'idea di gioco, un'idea di come stare in campo, provava a imporre la sua iniziativa, a volte ci riusciva, a volte no. Ieri l'Inter è stata in soggezione dell'Empoli per almeno in maniera totale. Andrea, a Milano non c'è il mare ma è pieno di gamberi, il Milan cammina al contrario, l'Inter, ma è curioso come la peggiore Inter stagionale, come dici tu, venga dopo, la, dopo le due migliori versioni dell'Inter della stagione. Ecco, io contestavo anche questo di punto di vista, tra l'altro, Carlo, perché è cambiata tutta l'aria intorno all'Inter grazie a Mancini, che ha portato, come abbiamo sempre detto, questo allure di positività anche nei giudizi. Ma l'Inter di Torino aveva giocato mezz'ora, ma per un'ora era stata in balia molto più che con l'Empoli della Juventus, poi è uscita nel finale, è d'accordo. L'Inter che ha battuto il Genoa ha giocato un buon primo tempo con due o tre occasioni da gol, non di più, ma poi il secondo tempo aveva giocato malissimo e ha subito il Genoa, però tutti a dire che era stata un'ottima Inter. Lo era stata, ma a metà, a pezzi, a pezzettini, ed è ancora una squadra che è alla ricerca anche di un modulo di gioco con degli interpreti giusti, perché Mancini continua un po' a ruotare gli uomini, però fa fatica. Sì, c'è un amico che scrive, Andrea, 349-238-6666, questa è la peggiore Inter, però la peggiore Inter di Mazzarri, ieri perdeva, per carità, sì. Mancini che da due mesi comunque da Piano Gentile, lui ieri ha detto questa non è la mia squadra, però il tempo comincia anche a passare, poi prima o poi i paragoni andranno anche fatti. Sì, si cominciano già a fare, sui periodi ipotetici, se ci fosse stato Mazzarri avrebbe perso o vinto, io non entro, perché poi sono tutti discorsi molto accademici, sì, però l'Inter di Mancini in otto partite ne ha vinte due, ne ha perse due, ne ha pareggiate quattro, siamo comunque su medie punti abbastanza basse. È vero che l'Inter di Mancini ha incontrato le prime del campionato e in più ha giocato anche il derby all'esordio del Mancio in panchina, quindi magari ha avuto avversari un po' più difficili, però quelli che vogliono guardare le medie punti oggi ci dicono che la media punti di Mancini è inferiore a quella, sì, di Mazzarri. 1,25 contro 1,45, 8 partite, sì, contro 11, questi numeri freddi, sì, freddi, sì, esatto, numeri. Esatto, poi ecco, magari i numeri, le statistiche conviene farle un po' più sul lungo raggio, però di sicuro questo cambio di passo, di marcia e di gioco io non l'ho ancora visto davvero. E poi Mancini è sicuramente un bravissimo allenatore ed è entrato meglio probabilmente nei meandri dei cervelli che si trova a dover gestire in uno spogliatoio un po' particolare come quello dell'Inter, però si sta accorgendo anche il Mancio che ha tra le mani una squadra di scarsissima personalità. Sì, materiale scarso. Grazie Andrea. Ciao Andrea. A voi, ciao. Grazie ad Andrea Sorrentino di Repubblica. Adesso arriva anche Pierluigi Pardo dopo il GR delle 18. 800-24-0024. Siamo qui, Milan, Juventus, Roma, Napoli. Dobbiamo parlare anche della Roma, Carlo. Sì. Ragazzi, ci sono fra poco, tutti convocati weekend, 800-24-0024, se becchiamo fra poco. Tutti convocati. Dalla Roma ci si aspettava qualcosa in più quest'oggi. Soprattutto nel primo tempo, quando giochiamo contro una squadra che è in piena fiducia, fare un regalo di Natale prima, dopo Natale, dopo due minuti, veramente diventa una corsa a handicap. Per fortuna abbiamo visto una Roma totalmente diversa nel secondo tempo. Non è solo il cambiamento di modulo gioco, penso che abbiamo corso di più, abbiamo avuto un possesso palla molto più fluido e abbiamo sofferto molto meno. Sono un po' dispiaciuto perché la squadra dovrebbe cercare di costruire l'azione meglio da dietro, cosa che oggi abbiamo fatto poco, che abbiamo concluso poco. Ecco, questo è una cosa per la quale sono un po' dispiaciuto, però questo è un altro problema che dobbiamo cercare di risolvere. Ci vorrà un po' di tempo, avere un po' più di personalità fuori casa, soprattutto in questi campi così dove le squadre giocano bene e corrono molto. Visto che Higuain è stato decisivo, dobbiamo legare il futuro di Higuain alla conquista del preliminare di Champions? No, io credo che Gonzalo sta dimostrando in campo che è concentrato e che vuole fare il meglio. Questo per me è sufficiente. Parlare del futuro adesso che siamo all'inizio del girone del ritorno mi sembra troppo presto. piace questo, che abbiamo preso un gol con una palla nostra e non dovrebbe capitare. Abbiamo cercato di creare, abbiamo anche creato a sufficienza, però insomma adesso non accampiamo insomma scuse, guardiamoci tutti dentro, dobbiamo fare molto di più per una squadra con le nostre qualità. Dobbiamo ripartire da prima della sosta, in questo momento non siamo probabilmente sereni. Tutto il Milan ha lavorato un po' in grande di quello che non è più, e allora si sono rilassati e adesso è una squadra assolutamente non mediocre, di più. Quindi se non corre, se non lotta, è una squadra come l'abbiamo visto in queste ultime tre partite, senza carattere, senza senso quasi. Prima dicevamo se si può dire allo sbando, sì, si può dire quasi allo sbando. 800 24 00 24, riassunto sonoro di un sabato domenica in attesa della Juventus di Luigi Pardo. Ciao. Eccolo là. Bene. Ciao Pier. Non so se pesa di più il passo falso della Roma, il Napoli che si rilancia, la sentenza del professor Boban sul Milan. Ma storie diverse. Il pareggio della Roma rischia di pesare tantissimo, perché insomma, al di là di tutto, la Roma di quest'ultimo periodo non è una squadra da scudetto. Poi il campionato è lungo, ovviamente, magari fra un mese lo sarà, tornerà ad esserlo, tornerà ad avere una brillantezza, magari anche prima, però insomma in questo momento non sembra una squadra all'altezza. Insomma, possiamo rivedere la Juve stasera, però in ogni caso la Roma quello che deve fare non lo sta facendo. Questo è un dato abbastanza incontrovertibile. Sì, senti, ma hai qualche spiegazione sul fatto che la Roma buchi in maniera così insistente i primi tempi? Ma a me sembra, allora Garcia mi sembra meno lucido di qualche tempo fa. Sì, anche a me. Ecco, questo è un primo elemento. La squadra mi sembra abbastanza sulle gambe da un punto di vista fisico, e poi c'è una serie di cose rispetto all'anno fa che funzionano meno. Ci sono dei giocatori un pochino più logori come De Santis, che pure per esempio ieri ha fatto una grande partita, ha fatto un paio di parate importanti. Maicon, che non è quello dell'anno scorso, Castan, sappiamo bene che purtroppo insomma è stato fuori, gli facciamo sempre grande in bocca al lupo. Benatia è partito, davanti c'è questo grande equivoco dell'attaccante, della prima punta, che la Roma non prende mai, non compra mai, ha comprato un giocatore esterno, i Turbe, spendendo un sacco di soldi, e fin qui non ha fatto la differenza. Io devo dire la verità, quest'anno la Roma sinceramente l'ho vista raramente giocare delle partite clamorose, anche nella prima parte della stagione, anche in quelle prime 5 vinte, mi sembra insomma che fosse un buon andamento, ma poi se andiamo a vedere in quelle prime 5 giornate a punteggio pieno, ad Empoli, a Parma, non è che avesse proprio entusiasmato. Di partite veramente brillantissime ne ho viste poche, ho visto il CSK in casa, ho visto il Torino, ne ho viste 5-6 di partite eccezionali. L'anno fa era una squadra che giocava a pallone in un altro modo. Anche quella con l'Inter. Anche quella con l'Inter, sì, anche se l'Inter della primissima parte di Mancini, non quella di oggi, tra l'altro Mancini non è che l'attività, che scusami, favoreggio un po'. Sì, cerchiamo anche di ripristinare, non so se sono io con le cuffie che sento malissimo il telefono di Pierluigi Pardo, poi adesso fra un po' c'è il traffico, lo richiamiamo, poi c'è anche da dire che i Turbe è un caso, Destro è un caso, Pier, mi sembra mentalmente lontano ormai dalla Roma, al di là dei gol che continua a segnare 5 nelle ultime 7 partite giocate da titolare. Destro, Giovanni. Ma evidentemente nella Roma di quest'anno c'è anche questo. Ci sono Giovanni da Padova, Andrea da Asti, 800 24 00 24, noi siamo qui fino alle 19, faremo anche la vigilia di questo Juventus Verona. Giovanni da Padova. Buongiorno, buonasera. Eccoci, volevo dire a proposito di Inzaghi, quello che mi ha colpito, e qui sono d'accordo con Bomba, dall'inizio del campionato non c'è uno schema, non c'è una razza nel gioco, tutta la parte centrale per passare il centrocampo fanno 10 passaggi indietro, proprio è zero assoluto come gioco. Sì, io in realtà uno schema l'avevo visto all'inizio di questa cavalcata. Il Milan era una squadra da ripartenza con esterni veloci, non aiuta nemmeno Carlo, poi coinvolgo anche Pierre, se poi uno degli esterni del Sharawi che è involuto nella sua crisi, se l'altro Onda si è fermato ad ottobre adesso a fare la Coppa d'Asia. Però l'idea era quella, mi sembra. Sì, ma devi avere un piano era B. Era quella anche a dicembre. Sì, ho capito, però devi avere un piano B, perché non è che puoi giocare sulle ripartenze contro l'Atalanta in casa, abbi pazienza. La verità è che il Milan, la fonte del gioco qual è? Il centrocampo. Il Milan non ha centrocampisti di qualità, allora non è che puoi giocare a rimpiattino quando hai queste squadre qui. Quindi devi avere comunque uno spartito alternativo, un'idea alternativa di gioco, perché non è che hai trovato Menez, Falso Nueve, ti ha dato dei profitti e allora non puoi avere delle altre idee, delle altre intuizioni, e devi andare avanti con questo tipo di modulo. E Sharawi è un attaccante che non segna mai, e questo è Inzaghi continua a dargli fiducia, probabilmente fa bene, però alla fine mi insegni come gli attaccanti si valutino anche dall'almanacco, no? Sì, dall'almanacco Panini, a proposito di destro e di attaccanti, a proposito di destro, Piero, esatto. O forse ha ragione Boban quando dice questo Milan è una squadra senza carattere e senza un senso logico. Ma sicuramente il Milan ha un problema enorme, che sono i centrocampisti, secondo me. Non è un caso che le partite peggiori del Milan siano quelle contro squadre che si chiudono, con le quali deve fare la partita. Insomma, non è un caso, secondo me, che il Milan abbia perso quest'anno in casa contro il Palermo, abbia perso contro il Sassuolo, abbia perso contro l'Atalanta oggi. Sono le partite che soffre di più, perché sono le partite nelle quali c'è bisogno di una qualità del centrocampo che manca, che è completa, mentre lì contro, in qualche circostanza, magari più fuori casa, magari più con le grandi, qualcosa di un pochino più interessante si è visto. Sì, quando può giocare da provinciale, che poi è un po' la sintesi. Mi sembra che ci sia anche una pericolosa tendenza al calo, cioè mi sembra una squadra che da qualche partita a questa parte ha paura. Poi chiaramente ci sono anche gli episodi, c'è la legge di Murphy, insomma oggi Pazzini si è sbattuto tanto, per esempio, insomma poteva avere un pochino più di fortuna, però non è stato neanche fortuna del Milan, ma chiaramente non ha soldi. Sì, credo sarebbe sbagliato però legare, diciamo, quello che è successo oggi e in questo mese di gennaio al Milan alla sfortuna, credo Pier, ma non l'ha fatto neanche totale. Neanche Filippo Inzaghi. C'è il traffico, Pier, traffico. Convocati. Andrea D'Asti, eccoci. Buonasera a te, prego. Grazie. Io sono un milanista contento, perché in questi momenti credo che i sei milanisti tifino contro per quanto sia possibile, il cuore lo permetta. Io ho avuto l'abbonamento da decimo e undicesimo negli anni di Terim, Tabarez, forse prima ancora. Questo Milan, val bene la pena ricordarlo, poi mi correggerete, ha uno dei primi 10 fatturati al mondo, il secondo monte ingaggi in Italia. Se la rosa è di questo livello, la colpa è di chi l'ha messa assieme. E Inzaghi, col suo gioco sparagnino e assolutamente involuto da provinciale, prende più gol di Leonardo e Sega. I numeri in questo caso non mentono mai. D'altronde, se un direttore generale si sceglie un allenatore a cui manca solo la scritta salve sulla schiena per essere identificato come lo zerbino perfetto, poi avrà indotto un allenatore che trasmette questa ai propri giocatori, perché a me venire a dire che il nostro Milan è un Milan che la cui rosa non può competere, non deve essere cambiata con quella di Roma e Juve, siamo a un pelo dalla meningite, ecco. Io. Sì, la rosa evidentemente non può competere, Pier, quest'anno con quella di Roma e Juve. Ha provato a dirlo Berlusconi un mesetto fa, che non cambierebbe mai la sua rosa con quella di Roma e Juve. Poi la realtà si è incaricata di spiegargli che le cose vanno un po' diversamente. Il Napoli davanti. Sì, ma c'è probabilmente anche la Lazio, vista come gioca. No, la Lazio gioca meglio di tutte da questo punto di vista, a parte la Juve e la Roma dei momenti migliori. Anche oggi poi, se vuoi, parliamo di Lazio Napoli, però da un punto di vista di rosa complessiva, secondo me il Milan non è inferiore alla Lazio, però lo è poi perché la Lazio ha un'idea di squadra che il Milan non ha. Su questo, guarda, proprio non ci sono assolutamente dubbi. Servirebbe qualità in mezzo al campo, secondo me, ancora più dell'attaccante, dove il Milan può provare, secondo me, a recuperare Pazzini. È in mezzo al campo, secondo me, che servirebbe veramente della qualità e servirebbero delle idee che in questo momento non ci sono. Anche leadership. Sì, anche leadership. Oh, sapete chi è che gioca bene? Benino? Gioca bene il Palermo di Beppe Iachini, che saluto. Mister, buonasera. Buonasera. Lei non ha problemi di fosforo, di qualità del gioco, o no? Ma noi cerchiamo, siamo in neopromossa, stiamo lavorando con un gruppo di ragazzi nella media molto giovane, cerchiamo di, attraverso il gioco, una mentalità giusta, di arrivare a conquistare punti che servono per arrivare più in fretta possibile al primo obiettivo stagionale, che è la salvezza, e poi cercare anche di divertire il nostro pubblico e valorizzare al meglio tutti i giocatori. giocatori a disposizione della società. È più contento, orgoglioso anche di quello visto ieri sera con la Roma, o più arrabbiato per questi due Palermo, quello del primo tempo assolutamente dominante e quello del secondo tempo che ha fatto rientrare in partita la Roma, poi ha anche rischiato di vincerla, però insomma è stato un Palermo diverso? No, diverso, io penso che in campo giocavamo contro la Roma, noi abbiamo fatto la nostra partita, siamo partiti molto forti, abbiamo fatto un primo tempo di grande intensità, nel secondo tempo abbiamo controllato la partita, non stavamo rischiando più di tanto, il nostro portiere non ha fatto praticamente interventi decisivi, e peccato perché su una palla inattiva con un pizzico più di attenzione potevamo evitare il gol, però non abbiamo nello stesso tempo rinunciato ad andare a credere di poter anche vincere, abbiamo avuto l'occasione con Dybala, l'abbiamo sbagliata, però rimane la prestazione nel complesso, il Palermo era quella la partita che doveva fare con grande compattezza, grande intensità, spirito, ha sbagliato delle volte qualche ripartenza, ma su queste cose dobbiamo lavorarci, ma incontravamo una grande squadra come la Roma. Sì, che probabilmente ci si aspettava una partita diversa dalla Roma più che dal Palermo. Senta, Dybala è il più forte giocatore che ha mai allenato? Ma sicuramente ne ho allenati di bravi. Paolo è un ragazzo molto giovane, ha appena compiuto 21 anni, quindi ancora margini di crescita importanti, è un anno e mezzo che lavoriamo insieme, in quest'anno e mezzo di lavoro è cresciuto tanto sotto l'aspetto strutturale, sotto l'aspetto dei movimenti. Quando sono arrivato a Palermo mi dicevano che era un trequartista, una punta interna, invece piano piano lavorando con il ragazzo ho sempre avuto la sensazione e soprattutto con lui il convincimento che potesse giocare da prima punta, atipica seppur con altre caratteristiche, di velocità, rapidità, di profondità, di punta che non dà riferimenti, e questo è un po' la fonte del nostro gioco, in questo senso l'imprevedibilità, e quindi su quello ci basiamo, e Paolo è cresciuto molto in consapevolezza e ha ancora margini di crescita e di miglioramento. Non male al ragazzo. Pier? Come si mette in difficoltà la Roma, mister? Ci spiega, cioè, volevo una sua analisi sulla Roma, che in questo momento sembra un po' al di là dei meriti del Palermo, che sono indiscutibili e l'avete dimostrato mille volte nelle ultime gare, però mi sembra un po' sulle gambe dal punto di vista dell'energia, e volevo capire tatticamente lei che idea si è fatta di come si può mettere in difficoltà. Ma la Roma è una grande squadra che sa palleggiare, sa andare in gol, non ti dà per riferimenti, va con centrocampisti, con i tagli degli esterni, crea superiorità numerica in tutte le zone del campo, quindi necessariamente, ma non solo contro la Roma, squadre come Palermo chi affronta la Roma nello specifico deve andare a 200 all'ora per 95 minuti, perché solo alzando i ritmi, creando di conseguenza superiorità numerica in tutte le zone del campo, parità numerica, perché loro sono bravi in questo, alzando le intensità di gioco, dando le profondità ovviamente poi alle proprie giocate, si riesce a creare i presupposti per potergli creare qualche problema, altrimenti loro sono devastanti, perché sanno andare anche in gol, poi anche su soluzioni di palla inattiva, hanno degli ottimi tiratori, quindi devi fare contro la Roma partite più che perfette. Quanto tempo non sente Zamparini che parla di esoneri? Ormai è quasi un record. Contro risultati utili, però no, dico, quanto tempo è che non sente Zamparini che dice? No, col presidente ci sentiamo più volte durante la settimana, cioè, è un presidente disperato, è disperato perché non ha niente da dire, appassionato della propria squadra, no, è molto felice, molto contento per quello che è la crescita e il percorso che abbiamo iniziato insieme lo scorso anno, quando sono arrivato al 13° posto in Serie B e abbiamo fatto un grandissimo campionato battendo tanti record, valorizzando i giocatori, e quest'anno stiamo cercando di continuare a farlo in Serie A, quindi sta andando tutto bene, il rapporto è ottimo, quindi continuiamo con credendo in un progetto di questo tipo, sapendo che il calcio poi i risultati vanno e vengono, però credendo di di fare insomma un lavoro buono, ecco, insieme. Presidente che è anche coraggioso, perché comunque su Dybala ha scommesso quando era un ragazzino, non l'ha pagato poco, evidentemente poi è stato anche bravo ad attenderlo per un paio di stagioni. Quello che noi ci aspettiamo da Iachini, se siete d'accordo, è che magari in questi mesi faccia opera di convincimento, perché Vasquez ha detto che è contento se Conte lo chiama. Dybala ci pare di aver capito che invece ha in mente l'Argentina, però non si sa mai, mister. Ma guardi, io penso che se ci mette una bella parola ma io penso che queste cose siano cose di cuore, quello che uno sente nel proprio cuore, gli interessi, il calcio è sicuramente un mondo di interessi, ma deve essere soprattutto un mondo di passione, anche di cuore, di affetti. Se il ragazzo sente da piccolino l'affetto per la sua nazione, è giusto che vada dove lo porta il cuore. Se questa è l'Argentina, è giusto che giochi per la voglia di giocare per l'Argentina. Se sente dentro di essere di sentirsi più italiano che argentino, viceversa, è giusto che prenda una decisione diversa, e noi ne saremo tutti ovviamente felici. Però in questo senso deve comandare il cuore e non l'interesse prettamente veniale, economico o di facciata. Pier, abbiamo un minuto, poi salutiamo il mister. Sì, ho contato i risultati. Allora, 5 vittorie, 5 pareggi e una sconfitta, tra l'altro con tanti gol, 4-3 di Firenze nelle ultime 11 partite. Una delle prime di queste vittorie, forse quella della svolta, è stata quella col Milan. Lei se l'aspettava un Milan così in difficoltà? Il problema che, qual è? La difficoltà dei centrocampisti di fare gioco? No, anche perché in quel periodo stava andando anche molto bene il Milan, devo dire la verità, e quindi stava entusiasmando, stava giocando alla grande. Poi strada facendo, magari piano piano, è chiaro, quando viene a mancare qualche risultato ci sta che possa venire meno qualche certezza, no? Qualche titubanza, però sinceramente per capirne a fondo le problematiche bisognerebbe esserne dentro. Io penso che il Milan abbia comunque la qualità della squadra, dell'organico, per fare un campionato tra le prime 5-6 squadre, 4-5-6 squadre del campionato. Pippo sta lavorando, a mio avviso, cercando di portare delle idee, le sue idee, e quindi magari ci vorrà un po' di tempo affinché queste possano essere assorbite. Comunque, dando un'occhiata alla classifica, in quel campionato c'è anche il Palermo, oggi 26 punti insieme all'Inter e al Milan, 7 punti dal terzo posto che varrebbe la Champions, un po' più sotto, un po' più vicina c'è la zona Europa League. Magari fra qualche settimana anche Beppe Iachini, una volta esaurita la rincorsa alla salvezza, avrà modo per pensarci, o è comunque un sogno fuori portata? No, noi, considerando il girone di andata, il nostro percorso, quello che abbiamo fatto, soprattutto come ha detto nelle ultime 11 giornate, ritengo che mancano dei punti alla nostra classifica, perché abbiamo colpito 9 pali, abbiamo perso qualche punto per strada in virtù di qualche errore per non aver chiuso prima le partite, o perché magari abbiamo preso qualche gol in errori individuali evitabili, e questo ci avrebbe portato sicuramente qualche punto in più in classifica. E quindi in questo senso, su questo percorso tattico, di lavoro, di organizzazione, di mentalità, andiamo avanti cercando di giocarci tutte le partite al meglio, e poi alla fine vedremo quanti punti sapremo portare a casa. Grazie mister. Grazie mister. A voi, grazie a voi. A Beppe Iachini. Ci fermiamo qui, c'è la pubblicità. Abbiamo 800 24 00 24. Però hai visto che bello Carlo, un allenatore che non si nasconde dietro la solita frase: ah, noi dobbiamo arrivare a quota 40 a salvarci. No, beh, detto, questo detto, Palermo poi gioca bene, poi vediamo, qualità, vediamo dove sarà fra un paio di mesi. Tutti convocati. Io vorrei dire a voi giornalisti, uomini di cultura, cosa sentite di fronte al fatto di dover commentare il campionato più taroccato del mondo? Credo che Riccardo è stato chiaro, che abbiamo parlato sempre noi con massimo rispetto, ma oggi grazie a internet abbiamo la possibilità di andare a un sito, mettere la parola chiave Buffon, Parma e arbitri, o mettere la parola chiave Allegri, Montari, Milan, Buffon quando era al Parma chiaramente, o soprattutto questa che mi piace tantissimo, Marotta, Sampdoria, Lazio, Parma, arbitri. E noi non siamo nati ieri, ma ci può stare. Ti amo campionato, perché non sei falsato, anche se inizialmente era separato, in realtà non sei falsato. L'ha detto Umberto Agnelli, l'hanno detto tanti critici di calcio, l'ha detto tanta gente, insomma non sei falsato. Hai avuto modo di vedere il gol della Roma? C'è l'ipotesi che ci possa essere una situazione di fuorigioco, anche se come sempre la faccenda è molto incarbugliata lì sul fuorigioco attivo e passivo. Che sensazione hai? Non so, nella prima giocata, nella partenza, sembra che Mattia sia più avanti, poi non so, ecco, sulla sponda, ecco, lì sembrava fosse leggermente un po' più avanti. E questo è stato fatto nel segno dell'amore. Meraviglioso ieri Benitez, vero Pier? Benitez alle prese con Google. Sì, ma insomma io... No, lo so che tu non ti appassioni, ma ieri sono andato su Google anch'io e ho scoperto ad esempio che... No, non ve lo dico. Delle robe sui rigori del Napoli, dai. Valerio da Lecce, Valerio. No, dopo ve lo dico. No, Valerio da Lecce. No, volevo dirti, visto che me l'hai chiesto, che è abbastanza strano, abbastanza inusuale. Cioè, Benitez lo conosco da anni. Onestamente, uno sfogo così, e il fatto ci sia tornato anche ieri, sei giorni dopo, è abbastanza sorprendente, lo dico sinceramente, sta conoscendo un po' lo stile, la personalità di Benitez. Ripeto, il gioco c'era, è indiscutibile e... io non vedo, l'ho detto la settimana scorsa, lo ribadisco, io non vedo un disegno. No, ma assolutamente, altrimenti poi staremmo qui a discutere lo stesso gioco di anche di Palermo, no? Roma, di centimetri, di millimetri. Poi però ve la dico una cosa sui rigori del Napoli, no? Che ho trovato su Google, che il Napoli non prende un rigore contro da più di 600 giorni. Davvero? Ad esempio, Valerio da Lecce, Valerio. Sì, buonasera a tutti, grazie Eccoci. Per avermi convocato. Anche lei su Google, no? Sì, a proposito di Google, ecco, la mia domanda, la mia riflessione cade proprio a fagiolo. Premetto che sono un tifoso juventino, ma sono obiettivo. Allora, fermo restando che questa Juve non è la Juve di Conte, è più umana, però comunque sono mesi e mesi che anche Garcia e Benitez fanno la tiritera della sudditanza psicologica e arbitrale. Secondo me questa Juve è stata falcidiata dagli infortuni dall'inizio dell'anno, ha tenuto comunque botta, arresto, è più forte delle altre squadre, si vede, si nota, anche quando è in difficoltà comunque non si aggrappa alle situazioni arbitrali, agli episodi arbitrali. Vediamo la Roma ha mandato via Gervinho per la Coppa d'Africa, la Roma non c'è più. Sì, c'è una differenza mentale oltre che tecnica, Valerio, io sono d'accordo, Pier. Ad oggi la Juve è la squadra più forte del campionato, su questo secondo me non c'è molto da discutere. Ci sono stati momenti nei quali la Juve ha traballato, la sensazione è che possa allungare adesso. Io credo che poi alla fine, nelle 38 partite, tranne alcune stagioni nelle quali magari si vede un vento che va da una parte, poi possiamo pensare che sia una serie di casi e una serie di coincidenze, oppure possiamo vederci del marcio. Ma io ripeto, in questa stagione non lo vedo, questa tendenza qui non la vedo. Sicuramente Juve-Roma è stato un episodio importante, poi però ne sono arrivati altri che vanno in una direzione anche diversa, e quindi io ribadisco, secondo me si fa un torto alla Juve se si parla soltanto di fattori arbitrali. È una grande squadra, è una grande squadra, al momento mi sembra ancora la più tosta. Sicuramente la distanza che c'è con la Roma è una distanza piccola, non è una distanza enorme, quindi il campionato è ancora aperto, ma ad oggi mi sembra che la Juve sia ancora preferibile, anche perché in questo momento nel quale la Roma, senza la Champions League, con una partita a settimana, dovrebbe riuscire a fare la differenza in positivo, sta faticando. Quindi nessuno, lo dicevamo l'altro giorno, a me poi l'altro giorno del dibattito che c'è stato dopo Napoli-Juve, la cosa che mi dispiace è questa, che si sia parlato poco dell'aspetto tecnico, perché chiaramente le Moviole si sono prese il sopravvento su tutto, e questo è chiaro che con quel gol, se sbandieravano il fuorigioco, la partita poteva finire in mezzo. Sì, fuorigioco, no? Pier, sul quale a una settimana comunque non esiste ancora una certezza, perché c'è sempre quell'ombra di maggio, c'è quell'interpretazione su Chiellini. Fuorigioco, ma voglio dirti, non riapriamola per cortesia, perché la lettura della partita ha detto che la Juventus ha avuto le sue occasioni, l'ha vinta e l'ha anche meritata. Dai, ma diciamo, sì, comunque stiamo parlando di una squadra che è fortissima. Una squadra che è fortissima, stiamo parlando di una sfida a scudetto tra due squadre che, ripeto, non vedo una continuamente favorita e l'altra continuamente vessata. Quindi, secondo me, alla fine l'episodio di Juve-Roma è stato pesante, sicuramente, ma è arrivato all'inizio di ottobre, e poi la differenza te la fanno gli 8 mesi successivi. Sì, oramai è caduto in prescrizione, Rocchi. Senti, a proposito, visto che l'hai commentata oggi, come hai visto Nabulé? Napoli ho visto cinico, anche un po' fortunato secondo me in alcune circostanze, con Higuain super. E beh, insomma, per me il Napoli, lo dico da 2 mesi, è la favorita per il terzo posto. Cioè il Napoli secondo me dovrebbe arrivare a spasso terza per la qualità tecnica che ha. Già semplicemente uno come Higuain, per me ci sono Higuain e Tevez a quel livello lì nel nostro campionato. Poi gli altri sono tutti un filo sotto, una spanna o due spanne sotto. Non mi è piaciuto moltissimo, cioè insomma l'idea che Napoli debba giocare in certi momenti come una provinciale, come è successo oggi, non è esaltante. Però per carità, ha ottenuto una grandissima vittoria su un campo difficilissimo contro una squadra che era probabilmente la più in forma del campionato, anche se con 1000 assenze, e devo dire che il Napoli ha ballato tanto dal punto di vista difensivo, ma tutte le volte che ripartiva era sempre pericolosa. Quindi oggi è stata una partita divertente anche da commentare, proprio perché la Lazio era sempre pericolosa quando attaccava, ma il Napoli quando di tanto in tanto ripartiva comunque costruiva cose importanti. No, è stata una bella partita. Lazio che non esce, credo, ridimensionata, mancava più di mezza squadra, quindi Lazio che resta ampiamente in corsa per quel terzo posto. Poi quando hai Higuain puoi anche vincerla una partita così, con un colpo meraviglioso, una mezza dormita di Berisha. Colpa di Berisha? Sì, certamente Berisha, colpa di Berisha. Anche Radu, insomma. No? Anche Radu, sì. Però tu hai Higuain e lui poi la mette lì all'incrocio con quella potenza e ti fa gol. Sono integralista su questo, altri quel magari, del portiere. Altri magari quel lì non l'avrebbero messa. Mi fate salutare Max Nerozzi della Stampa. Ciao Max. Ciao Max. Ciao, buon pomeriggio a tutti. A proposito di colpi dei singoli. Come va? Sì. Dove sei? Allo Juventus Stadium. Sto arrivando allo Juventus Stadium, sì, esatto. Ma ti manca Bologna? Abbastanza, ma sai, abbiamo tutti grandi speranze in Saputo adesso, quindi c'è grande domani c'è un bel posticipo, Bologna Perugia è bello, insomma. Sì, non male anche quello di stasera, ricordando 6-1 di giovedì, Coppa Italia. Noi ci aspettiamo che ci sia Max, no? Replay o no? Ma ci può stare, come direbbe qualcuno. Sì. Io penso invece che sarà una partita molto rognosa, perché ricordo la partita dell'anno scorso con il Verona, che a Juve vinse molto molto a fatica, e nello sport è spesso così, quando fai una goleada o vinci di 30 basket, giochi contro lo stesso avversario, ma io non so, io quasi mai ho visto delle repliche, poi magari mi sbaglio e finisce 3-0 all'intervallo anche stavolta, però non lo so. Mandornini mi sembra troppo sveglio per fare una primo cosa gol italiano di Llorente l'anno scorso, e poi segnò Tevez, un gol meraviglioso il secondo. Ma Pier, ma hai sentito che Giovinco va in Canada? C'è questa è ufficiale? Non è ufficiale, ma ci andrà sicuramente. Chi non si ritirerebbe a 27 anni a $10 milioni a stagione per 5 anni? Io mi ritirerei tranquillamente, tu non so Max. Ma lo so, tra altre cose Giovinco aveva fatto un po' correzioni in questo affare, perché il Monaco gli dava meno, ma sicuramente molto più delle squadre italiane. Fino a 3 settimane fa io ero convinto che a giugno andasse al Monaco, dopodiché è arrivato il Toronto che più o meno gli dà il doppio, e quindi c'è poco da dire. Sicuramente, come ricordavi tu, età, cioè di solito negli Stati Uniti si va a 33, 34, 35 anni, Giovinco forse è il primo che ci va a 28 in piena età agonistica. Senti un po', come ha preso scelta di vita. Come ha preso l'ambiente Juve, il Benitez di Google di ieri, che segue il Garcia di questi mesi, che segue tante altre cose che si sono dette sulla Juve in questo campionato? Ma ha preso un po' incavolandosi, un po' con ironia, ma devo dire che anche dentro la casa bianconera qualcuno secondo me ha fatto una considerazione un po' più seria, cioè che al di là di tutti i giudizi arbitrari, come diceva Pier prima, il Napoli dovrebbe arrivare passeggiando al terzo posto, e la grande invece domanda che bisognerebbe fare a Benitez è come cavolo fa una squadra che per me, mio giudizio, è in fase offensiva la più forte del campionato, anche meglio della Juve secondo me, cioè Careon, Higuain, Mertens, Hamsik, per me sono devastanti, e come fanno a fare così tanta fatica? Questa secondo me è la vera domanda da fare a Benitez. Domanda che sarebbe da girare a Rafa tra una googolata e l'altra. Max, ti chiedo un minuto di pazienza, traffico. Fratelli e sorelle, volevo dire una cosa al signor Pardo. Se lui dice una parolaccia contro il San Lorenzo, si deve aspettare un cassotto, ma è normale. convocati. Parte Gerico con il destro, pallone teso, 1-0 Juve, sono passati appena 5 minuti, la Juventus in vantaggio. Pallone fuori per Coman, poi insegue da quella parte Martic, prova ad allungare la facca del francese, via bene, cambia passo, cambia direzione, potrebbe andare al tiro, lo ottiene, che gol pazzesco, grandissimo gol di Coman all'incrocio dei pali, 6-1, cappotto. Dentro, Pogba, prova la volea, ancora Pogba, doppio rimpallo, Pogba, il pallone finisce in rete e sono 4, poker, Juventus, poi Pogba, 54esimo minuto, 4-0. Scopo è uno scopo, la reagire c'è perché abbiamo un'altra partita, quindi dobbiamo giocare... E reagire non lo so, sicuramente credo che sarà difficile, insomma, non fare meglio di quello che è stata l'altra sera, quindi niente, con molta tranquillità prepariamo, abbiamo già da ieri preparato questa partita e andiamo a giocarcela. Sarà diversa la partita di quella che è stata giovedì, innanzitutto perché loro avendo subito una sconfitta del genere domani faranno una partita diversa sotto il piano dell'attenzione del non concederci niente, e noi credo che saremo fuori di testa a pensare che domani la partita sia una partita facile, soprattutto per l'importanza della partita in questo momento del campionato, e credo che nella seconda parte di stagione bisognerà fare il meno errori possibili, perché poi dopo è tempo per recuperare, ce n'è di meno. Buffon ha detto troveremo un altro Verona sicuramente. Me lo auguro, e mi auguro, insomma. Ogni partita ha una sua storia, come dico sempre, quindi domenica sera è un'altra storia. Sì, ha ragione Mandorlini, difficile vedere un Verona peggiore di quello di giovedì. Per chiudere, Max Nerozzi, inviato della stampa, gioca Pereira, confermi? Sì, dovrebbe giocare Pereira dietro le punte. E poi per il resto, la solita Juve di questo scorcio di stagione. Sì, e tra altre cose sono due dati statistici che può raggiungere, i 9 gol appena subiti da Negri, per me è una sorpresa, nel senso che Negri non passava da difensivista, invece neanche la Juve di Conte arrivò a metà percorso con così pochi gol subiti, e poi più 5 su a Roma, Conte ne aveva 8, però insomma con la qualificazione della Champions League arriva a più 5 al giro di boa, non è malissimo. Più 5 il netto di Juve Verona di questa sera, grazie Max. Ciao, buona serata a voi. Grazie a Max Nerozzi. Giorgio da Fermo, buonasera. Eccoci. Allora, io da tifoso rossonero vorrei fare un appello a tutti gli ex giocatori del Milan, soprattutto quelli che hanno contribuito a fare la storia del Milan, e dire questo: se vi chiama il dottor Galliani o il presidente Berlusconi per proporvi una panchina del Milan, rifiutate assolutamente, perché accettare, magari presi dall'entusiasmo, vorrebbe dire bruciarsi. Già ne abbiamo 3 che sono stati bruciati: Leonardo, Sedos, Inzaghi. Io faccio solo un appello, Urbi e Torbi, così. Non rispondere al numero di Galliani, no, Pier. No, rispondere no. Educatamente, no, grazie. Educatamente, Pier. Ringraziare, no. Adesso no. Pier. No, io penso che... Tu rispondi, sì. Cioè, se chiama Galliani, no, rispondiamo tutti. Ma certo. È chiaro che, insomma, no, come si fa a pensare? Il fascino è enorme, il fascino di quelle 5-6 squadre che hanno una storia di un certo tipo, in particolar modo, ovviamente, delle 2-3 che hanno vinto a livello internazionale, è fortissimo. La verità è che chiaramente aumentano anche le pressioni. E quindi poi il pubblico è abituato, insomma, infatti oggi ho fatto un collage di foto fra il Milan del 2010, che poi già era un Milan in fase calante, quello di oggi, insomma, Milan ha perso in questi anni gente come Thiago dietro, come Ibrahimovic, Pirlo se n'è andato, lo sappiamo bene, Nesta, non devo mettere il dito. Sì, è lontano parente, ma non solo del Milan, quello degli invincibili, anche del Milan un po' più recente. Il problema è lì, poi c'è anche magari il problema della qualità in panchina, dell'esperienza, del carisma. Ne parliamo, ma può servire, insomma, il parafulmine a Rig? A Riggo. Dipende perché bisogna giocare come un'orchestra. Sì, con Van Basten, Baresi, Maldini, noi tu non lo sai, ma abbiamo avuto un'orchestra. Uno straordinario Andro Mercune la prima ora, Berlusconi e Sacchi. Può servire? Pier, può servire in questo momento? Può servire, certo, può servire, però. Insomma, in qualche modo io penso che Galliani abbia già risposto, cioè Sacchi non è andato via dal Milan, non perché sia libro paga, non è a libro paga ovviamente, però è una persona che ha rapporti, come ha rapporti con Ancelotti, quindi le sue chiacchierate le fa con Ancelotti, le farà anche con Galliani, le farà anche con Berlusconi, quindi insomma il problema non è non sapere cosa fare, il problema secondo me è non avere i mezzi in questo momento per poter competere a un certo livello, aver fatto delle scelte di un certo tipo. È chiaro che il Milan, un discorso che abbiamo fatto spesso in questi anni, non ha la possibilità e la serenità di fare una politica sui giovani tranquilla, serena, per poter costruire con 5 anni. Il Milan ogni anno deve trovare il colpo all'effetto, deve trovare il grande nome, deve provarci, no? Deve provare ad accendere. Sì, non c'è il tempo, Pier, di aspettare, ma questo è un discorso che si può anche allargare ad esempio all'Inter. Pier, ti saluto, siamo in fondo. Sentiamo domani. Ciao Pierino. A domani dopo il GR delle 14. Dopo il GR delle 14. Chi è? Pronto? Ma pronto, sì, eccomi qua. Serse, buonasera. Bentornato. A prescindere, sempre a prescindere. Sì. Come state? Bene, non c'è male. Perché qui? Io intanto sono orgoglioso di essere con voi, almeno per un saluto tra vecchi amici, anche perché stasera ovviamente non ci sono partite. No, c'è quindi... stasera la partita, c'è. Beh, allora possiamo commentare l'anticipo, sì. In particolare il 6-1 della Juventus sul Verona, sì. Mi è dispiaciuto che non c'era Vidal, è fermato da una fastidiosa prostatite ghiandolare. No, a parte che la tonsillite, comunque Juventus Verona si deve giocare, 6-1 Coppa Italia, altra storia. Ah, sì? Sì, e comunque era tonsillite. Comunque, vabbè, insomma, si gioca. Si tratta, sì. Sempre di elongazione delle intestine. No, non è l'intestino, non è. Vabbè, comunque, insomma, il 6-1 non rispecchia la partita, anzi la Juve ha corso un rischio tremendo di defaillance, sì. Il Verona è stato padrone del campo nonostante la doppietta, sì, di Giovinco. È finita 6-1 per la Juve, è finita 6-1 per la Juve, sì, Giovinco. Comunque ha segnato. Poi mi è piaciuto, sì, anche il gol di Coman, il barbaro. No. Lo chiamo amichevolmente così perché sì. non si rade, no? No, non ha un pelo di barba, no, non ha niente. Ah, sì? Serse, comunque 6-1 per la Juve, era Coppa Italia. No, non glielo facciamo nemmeno fare il pronostico. Ciao Serse, ciao. Sì, è finita così, domani dopo le 14 con Pierluigi Pardo ci sono io, perché gente lo mandiamo in ferie per un giorno. Io ringrazio Claudia Schiattone in cabina di regia, Gianmarco Ferronato, Valeria Bernardi. Noi ci sentiamo con tutti i convocati weekend, domenica. Sì, sono Massimo Cacciari, ma non è questione di catastrofismo. Domenica dalle 17. Purtroppo liberarsene è illusorio, è evidente. Questa gente deve vergognarsi. Gente, a Pardo, il Capuano, sono la dimostrazione antropologica vivente che la nostra non è una civiltà superiore. Ma Dio ce ne liberi.